Allora, dove eravamo rimasti? Siete all'interno di questa recinzione nella cattedrale di Oclica. Praticamente devi immaginare che una porzione della chiesa, che è una chiesa molto antica, cioè un migliaio d'anni, una roba vecchia vecchia, è stata separata dal resto da una recinzione in metallo, quindi a maglie abbastanza larghe e abbastanza resistenti da non poter essere aperta con facilità da voi. Non è chiaro. Con facilità da noi. Sì, esatto, non è Scusami, chiaro scusami. il concetto, cioè perché ci sia la recinzione, però non avete fatto domande. Ci sono delle colonne che delimitano un po' questa recinzione, le colonne di una cattedrale qualunque, quindi c'è anche il rosone gotico, molto bello, che è per metà coperto dal soffitto. Ok, quindi immagina che l'altezza del coso sia di 5-6 metri, più 5 metri che 6. E c'è un grande portone di legno che viene chiuso ogni volta che entra qualcuno per motivi. E ci sono un centinaio di guardie nell'area della chiesa fuori dalla recinzione che lasciano comunque 3 o 4 metri di distanza da essa. È una cattedrale di una capitale, quindi è una chiesa enorme. E anticamente doveva tenere tutta la città dentro. E se volete farmi altre domande, altrimenti. Bossa, direi che Perché Eddie parliamoci. mi aveva fatto notare che io non vi ho mai descritto la chiesa. Sì, io pensavo ai posti tipo dell'ICE in America e basta, tipo i campi di concentramento che hanno lì. What the fuck? No, no, Quale no. Cioè, appunto. aspetta, la parte dentro la recinzione è molto il vibe campo di concentramento, campo di Allora, prigionia in appunto. Africa. Però Ok. dentro una chiesa, capito? Vabbè. Nella mia testa era un bianco Ma anche. asettico, quindi adesso allo sfondo siamo a Sì. posto. Anch'io avevo un bianco asettico, Cristo. Va bene, allora, Naya, fai tu la domanda da Done, cioè. Fai tu la domanda, Ladone. Io arrivo, ho bisogno un attimo di mindsettarmi. Fammi. Oh! Cos'era quella leva? Nye. Ah, no, Kronk, la è il. leva! È il mio mobile, è il mio sgabello, tavolo, qualsiasi altra cosa mi serve al momento. Allora. Lavoro. Madonna, sono buoia. Però dobbiamo farlo, voglio sapere. Naya si avvicina. Non so quanto, non so a che punto eravamo, però fa niente. Ti si avvicina, ti saluta e ti chiede un attimo come stai, ti chiede del più e del meno. Prima di entrare nel discorso, perché cioè. Come hai Allora, passato gli ultimi 5 giorni, Adone? Ciao, come stai? Adone, ovviamente, essendo subito schizzo, fa. Sì, beh, ho passato gli ultimi 5 giorni a fare ricerche. Su che cosa? Adone fa tipo. Su quello che abbiamo visto. Qui e te. Non mi ha mai risposto, quindi tipo. Cioè, lei ti ha mandato una lettera, quindi. E dai, aspetta, Naya fa il follow up. Naya Aspetta, ti. aspetta, posso Vai, vai. respawnare? Vai, sì, no, infatti l'ho detto più per te che per. Va bene, rifaccio tutto il discorso. Ripeto, Adone è schizzo, quindi quando ti avvicini per parlargli chiedi fa. Sì, a dir la verità ti avevo scritto una lettera, credo che però non farai in tempo a leggerla, essendo qua. In ogni caso. E sì, come ti scrivevo nella lettera, come ti dico adesso, ho fatto delle ricerche in questi giorni, ho trovato alcune informazioni riguardo quello che abbiamo visto. Aspetta, sì, che mi dicevi, cosa mi dicevi nella lettera del sogno, no? Ti chiedeva come fosse andato il viaggio in treno. Sì. Ok. Non Appunto. abbiamo avuto nessuna discussione, cioè nel senso ti ho Non solo ancora. chiesto com'è andato il viaggio in treno, cioè tipo. Poi, appunto, per rispondere alla tua domanda sul viaggio, sì, ho avuto dei sogni bizzarri in treno, però niente fuori dal normale, credo. Naya ti fissa un po' spaesato e fa. Tu ti ricordi il tuo viaggio in treno, quindi? Mi ricordo di averti sognato. Perché anch'io ho sognato te, quindi. quindi abbiamo sognato le stesse cose? Almeno credo. Tu ti cosa dov'eri quando mi stavi sognando? Dove eravamo? Allora, ho sognato che... E qui non so se l'ho sognato. Cioè, la mia memoria inizia da quando salgo su questo treno completamente spento, è notte, è buio, cioè prime ore dell'alba. Salgo su questo treno e ci sono solo io e questa... Neia tentenna un po'. Mezza persona? Entità? E appunto ha un buco, non le si vedono le gambe. Dai, annuisce proprio. Yeah. Ok, beh. Ti ricordi il finale? Così vediamo se almeno quello era lo stesso. E... Beh, nel finale ci andavamo a schiantare contro una stella marina? Io mi ricordo che andavamo a schiantarci... Cioè, finivamo in un specie di tunnel dentro una sì. montagna e poi cadevamo in un dirupo che trafiggeva questa stella marina gigante. Yes. Ok. Confermo. Ti è mai capitato questa cosa? No. No, anzi, di solito i miei sogni non sono così, anzi non ho mai... Devo ammettere che mi mette un attimo in soggezione questa cosa, perché no... Mi viene da dire che è la mia prima volta a fare una... sogno del genere, diciamo. Non posso dire lo stesso, però che qualcuno riuscisse a interagire con me e fare dei sogni congiunti non è... No, non mi è mai capitato. Ok. Non è normale come cosa, giusto? No. Per l'umanità, per le persone normali, non è normale quello che ci è successo. E ne ti fissa proprio... Noi cosa sarebbe, fa... scusa? Io sono solito fare incubi simili, quindi purtroppo non sono un ottimo, la mia non è un'ottima misura di paragone, però se tu non l'hai mai fatti, ci sono ormai abituato, ho imparato a gestirlo con sonniferi e altri metodi, però non... mai capitati così vividi. E ho una domanda, Bianic. Vai. Mi capitava, ok, ho sognato e interagito con Naya, e quella è la parte strana, ok, ma mi capitava anche di sognare proprio tipo Silas, cioè mi capitava di sognare persone esterne a me? Da una certa età in poi hai iniziato a prendere dei sonniferi che ti annullano i sogni. Quindi semplicemente hai smesso di sognare. Ok. That's deep. E cioè, prima di prendere quei farmaci avevi dei sogni come tutti, quindi sognavi le persone che conoscevi, sognavi cose strane. Perfetto. Perfetto, perfetto. E ok, comunque appunto Dona dice sì, dopo è capitato di sognare una, cioè di interagire con qualcuno. Cosa mi sono distratta? Mi sono distratta col giochino della sabbia, scusa. E ti fa un pat-pat, perché pensa a una vita fatta di incubi e... Cioè, lui sta... ne ha avuto uno ed ha avuto la settimana più brutta della sua vita. Gli è bastato per sbloccare nuove range di emozioni e reazioni. Adone accetta il pat-pat, non lo fa impazzire, però... Vabbè, accetta, dice... Comunque tranquillo. E Naya indica il sigillo che c'è su tutte le merda di recensioni, se ricordo bene. E fa... Quindi vediamo entrambi il sigillo Ok. Dico ovunque, però, dico, vediamo il sigillo in posti in cui magari prima non lo notavamo. Bene, mi fa piacere di non essere pazzo. Ok, anche tu li vedi, quindi. Oppure lo siamo entrambi. Ok, lei si mette l'appunto pazzia 1 o pazzia 2? Punto di domanda. E riguardo il sigillo, io ho scoperto qualcosa. O meglio, sono informazioni un po' inutili. Però ho trovato un trattato di demonologia molto antico. Oh. Che beh, parlava di questo sigillo. Ho fatto fatica a tradurlo, onestamente. Era in oridiano, era la lingua Vianic. In? Oridiano? Come si chiamava? La lingua. Vabbè, non era del latino. Ricordo. Allora, il latino, per capirci. Dai, dice origano. Non ti ho detto il nome, ho detto che era l'antica lingua Ronum, non ti ho detto il nome. Ah, Ronum, ok. Ah. L'antica lingua Ronum e sì, aspetta, appunto... Rox sta facendo una domanda stupida, quindi rispondiamole. È come per un romanaccio parlare il latino. No, lo so, non ho fatto nessuna domanda, ho soltanto fatto questo. Esatto. Non ho detto niente, va bene. Molto eloquente. È no, morto, non ho detto niente, quindi non esiste. Un tape, questa cosa non è successa. Va bene. Cantina il bitquirky. E appunto Adone ti dice, sì, il... Oh, porco Dio. Sì, proprio... No, non è vero. Ok. No, stai, shut up. Ok. Appunto, il demone di... Era il demone, posso definire il termine demone o lo devo chiamare diavolo? L'entità di cui si parlava, almeno che è collegata a quel sigillo lì, veniva chiamata Braxaras. Ok. Ed era un'entità appunto che aveva a che fare, era appunto un demone del fuoco, della tecnologia. Della tecnologia? Creatore della tecnologia, manipolatore della tecnologia. Il termine non sono riuscito a comprenderlo bene. So che è collegato a questi due concetti. Un'altra cosa che ho notato, okay, che però è inutile, credo. Tecnicamente non è un sigillo alchemico, nel senso che non... Okay. Appunto, l'alchimia non funziona così, come è descritto il sigillo, non funziona così l'alchimia, il che mi porta ad escludere gli altri tipi di magia, quindi credo che se questo sigillo ha proprietà magiche che possono rientrare nella categoria della teurgia. Ok. E come ultima cosa... Sì, ma infatti lo so, aspetta, sto facendo finire di parlare. Ok, e come ultimo dettaglio, che però è una mia osservazione, semplice e pura. Ciao Sara. Ciao Sara. Stiamo facendo una mini sessione individuale. Oh, minuto. Come cocainomani. E appunto, ho notato solo che il nome è composto da 8 lettere e ci sono 8 simboli nel sigillo, ma okay, questa è solo una mia osservazione. Ok, scusami. Hai detto che il simbolo ha origini non legate all'alchimia, ma bensì legate alla teurgia. Esatto. Ho capito che appunto il simbolo non è formato da cerchi alchemici, non ha quella struttura. E andando ad esclusione, non è chiaramente magia naturale, non è necromanzia, non è magia ontica, non è magia... Qual era l'altro tipo? Stregoneria, naturale. Non è stregoneria, e quindi il che ci lascia solo con l'unica possibilità che è teurgia. Ma è una categoria vasta. Stai mansplainando, non... bravo Eddie, mi piace che finalmente ruoli il personaggio. È una categoria vasta di cui io non sono esperto e ovviamente ho cercato di, nonostante abbia colleghi che si intendono di queste materie, ho preferito evitare di coinvolgerli. Beh, hai fatto bene anche perché la teologia in realtà sarebbe il mio campo, quindi ti fa il thumbs up. E qui, Bianic! Vai! Che cazzo puoi? Cioè... Vogliamo Naya... fare un roll? Allora, io mi ricordo che comunque i sigilli erano roba... Sì. Che non si usavano più da, un... da mo'. Cioè, ci tengo a specificare... roba... che te l'ha detto prima, cioè non so se te l'ho detto, ma te l'ha detto sicuramente prima, il libro che ho trovato è vecchio di 200 anni. Sì, me l'avevi detto, sì, okay, sì. Perfetto. Cioè, Naya vede queste come leggende, cioè nel senso è come se ti, se mi dicessi del, non lo so, non mi viene in mente niente di, sì, sì, di ma... paragonabile, però è comunque, cioè, è un, come si chiama, un, oddio, cioè, il sigillo viene comunque menzionato 200 anni fa. Che poi quello che ci sia detto collegato siano turbostronzate o meno... Sì, sì. Può essere. Però almeno sappiamo che il sigillo ha 200 anni. Mm. Poi comunque... Almeno. Penso che Naya la vedrebbe... Esatto. Sì. Non è quello... Ok. E... quello... Penso che Naya lo vedrebbe come un... Non è una cosa nuova. Ha almeno 200 anni. Sì, e... Sì. Tutte le cose che sono dette a riguardo possono essere turbo puttanate della Madonna inventate di sana pianta o comunque qualche briciolo di verità o di vaga informazione ci potrebbe essere, quindi... Posso dire un'altra cosa? State rullando due uomini fantastici. Pagando... Perché vi state mansplainando violentemente ogni singola cosa. Bene, sono molto contento. Tu le stai dicendo tutte queste cose ad Adone? Sì, sì, sì, era, sì, stava, sì, rullando. Okay. Sì. Ah, scusate, un attimo perso. E Adone fa... Sì, altra cosa. Sappiamo entrambi che tecnicamente i rituali di demonologia, cioè di evocazione dei demoni, non funzionano. Giuro almeno, che non io vi interrompo più, ma mi aspettavo dicessi... Vai, sì, vai. Ho due lauree in questo, credo di saperlo. Però non l'hai fatto, quindi... Niente, scusa. Momento Narnia al villaggio della Pigna. Mica vorrei dirlo, ma oggettivamente Adore non è così tanto sborone, okay, dai. Okay. Neanche Naya l'ha fatto, sì, eh. Sì, cioè, infatti, neanche Naya non l'ha fatto, quindi dai. Siamo... Appena lo fa, mette il carico. Stiamo facendo, come si dice, kind parenting con... Oh mio Dio, mi si è spento... Ok, mi si è spento il televisore. Stiamo facendo quel gentle parenting, ma con sì, te sì. Di noi, è proprio un... No, vabbè, ti ma dico... dimmi di cosa tratta la teologia, ti prego. Tra gli uomini cis-etero questa cosa si chiama conversazione. Sì. Prego, prego. E appunto, ma io lo vedevo così. Io so appunto che la... I rituali non funzionano per l'evocazione dei demoni, nel senso dove, se segue la lettera un rituale, non succede quello che è descritto che dovrebbe succedere, cioè non succede nulla. Al che mi porta un'altra mia domanda, ovvero, noi cosa abbiamo visto e cos'è, come te lo spiego? Ma soprattutto perché lo vedete nella cazzo di recensione? Esatto. Appunto Adone dice ci stavo arrivando, Vieni, scusami. Un secondo, ma qualcuno qui vuole fare backseat gaming, prego si sieda signor Bianic, non l'avevo vista con si gira verso Bianic e fa ah ma non ti avevo visto, prego si rischia, cioè, 16 anni sì, da poter usare, ti vorrei ricordare The Office non li stai usando, quindi no, comunque Adone è... porco, ti mi hai fatto perdere il filo. Ah sì, ecco, Adone dice quello che ho cercato di provare in questi giorni è esiste la manifestazione fisica e materiale del sigillo, ma è anche vero che anche se ci ho provato si è sempre rivelato un'illusione, ovvero trovi un'impressione nel legno, ho porcato il legno, appiccicato un pezzo di carta e l'impressione che mi veniva fuori non era il sigillo, chiaramente. Ok. So che lo so disegnare e sulla carta rimane, ma questo non prova niente. Ok, quindi c'è la possibilità che lo vediamo solo noi. Certo, il dato di la cosa che possiamo considerare concreta e certa sono però i tubi che noi abbiamo banalmente distrutto, da cui abbiamo visto il sigillo. Allora, sì, Lì è dove abbiamo iniziato a vedere il sigillo. Allora, nessun altro di quelli che erano con noi mi sembra che abbiano menzionato nulla, quindi spero che siamo solo noi due. Ne hai parlato con qualcuno? No. Nel mio sogno ne parlavo con mio marito, ma questa cosa non l'ho fatta nella vita reale. Ok. Quindi... Naya vorrebbe chiederti perché, ma è tipo... Se vuoi minding my business. No, è più un... Non sono cazzi miei. Va bene. Magari dopo, fra un po'. Ok. Neanche io non ne ho parlato con nessuno. E... Cioè, in teoria sarebbe l'unico modo per appurarci che effettivamente ci sia un sigillo e indica la recinzione. E non che noi vediamo cose dove non ci sono. Purtroppo tu come suggerisci di farlo? Naya è un po'... Non sono molto incline a spiegare la situazione a qualcun altro in questo momento. Nemmeno io. Però Naya si avvicina un po' alla recinzione. Per no, la donna ti trattiene in un attimo. No. Okay. E Naya fa tipo no. Solo okay, per okay, vederlo meglio. Perché effettivamente, essendo che probabilmente teologia, come hai detto tu, forse c'è qualcosa che non ho notato prima. Quindi voglio soltanto guardarlo meglio. E nella sua testa dice fra sé, come se non fosse impresso nel mio cazzo di cervello. Però vabbè, magari go fucking off, Naya. E cos'è che devo rollare, Bianic? Per ripetimi cosa vuoi fare di preciso? Sempre di 10 comunque. Ok, voleva vedere cosa riconosceva di teurgia related al simbolo, cioè cose okay, che lui sai, dovrebbe sapere. Allora, al di 10, che ti dico dalla scheda cosa ottieni. Grazie. Dammi il risultato che non sono loggato. 2, dio merda! Naya! Sei una sega. Direi che è un 6. Porco Dio, che vergogna. Allora. Mettiamola così. Teurgia è una materia estremamente vasta, come abbiamo detto prima, eccetera. La cosa che puoi evincere è cosa non è. Non è una forma di metamagia, cioè non è una magia alterata, qualcosa di così è, così lo ricevi. È molto antica, okay, quindi dovrebbe essere una forma di magia, assumendo che sia una magia, e qua ti viene il dubbio, assumendo che sia una magia dovrebbe essere una roba super lineare, cioè fa una cosa e fa solo quella. Okay. I rituali che richiedono un cerchio in genere sono robe di evocazione, non sempre, però più delle volte servono per manifestare qualcosa. Gli 8 simboli si ripetono, cioè c'è un simbolo 2 simboli che non si ripetono mai, mi pare. Quello a sinistra e quello a destra. Non sai come quello... siano organizzati. Ok, sì, beh, in base alla foto che mi hai fatto. Dato, diciamo. Non ci sono i simboli nella foto. Perché ti ho detto, non riesco a farli con Paint. I simboli sarebbero collocati nell'area rossa e sono 8. Okay, mi segui? Sì. Allora, c'è un simbolo che si ripete 3 volte, un simbolo che si ripete 2 volte e 3 simboli che si ripetono, cioè che compaiono una volta sola. Ci sono 5 simboli in totale. Aspetta, puoi ripetere, scusami. Ci sono 5 simboli in totale. 3 compaiono una volta sola. 1 compare 2 volte e 1 compare 3 volte. L'ordine non è chiaro perché non capisci dove inizi il cerchio. Cioè, è un cerchio, quindi non si capisce dove sia l'inizio e dove sia la fine. Perché se lo ruoti di 90 gradi è un'altra cosa. E l'avete visto almeno 2 volte in 2 posizioni diverse sto sigillo. Cioè... Quello che avete visto nella centrale era in una posizione, quello sul treno era ruotato ai 90 gradi rispetto a quello. quindi è andata a puttane l'idea dell'ordine. E Naya non conosce nient'altro, cioè realisticamente non ha idea di cosa, non ha più idee di questo. E Naya ti sta riferendo, cioè tutto quello che ha detto Bianchi ce l'ha detto, no. Perché non vuoi essere qua per fare male poi magari, quindi grazie Bianchi. Prego. D'accordo. Appunto, Madonna, si fanno appunto mentali, cioè. D'accordo. Il mio consiglio riguardo questa cosa sarebbe di non farci nient'altro finché siamo qui dentro e finché non capiamo se siamo ammalati. Nel senso che non abbiamo modo di provare quello che stiamo vedendo. Posso interromperti? Vai. Voi due no. Cioè, stavo pensando a chi è che conosce robe di teurgia. Vi do un indizio. Nel party non c'è nessuno, cioè quello più esperto è Naya. Insieme a voi ci sono 5 NPC. Fammi l'elenco degli NPC, Eddie. Oh, Kael, no. Ren, Devin, c'è Beatrix, la bimba l'occhio, pesa. Beatrix e basta in verità. Apprezzo c'è, una, che c'è anche Batu che è il... E apprezzo che non vi ricordate... Non memoria, sì, perché un personaggio quaternario sarà utile nella prossima sessione, giuro. La persona di cui non vi ricordate il nome, ovviamente. Ah, è giusto. E ma porco Dio, non... È il poliziotto, è il... No, vabbè, è vero, c'è anche Carlo, c'è anche Carlo. Vero, ah, vero. Si diventa... No, dice la persona, intende la bimba è la tipa esperta di teurgia. Dio, ok. Aspetta, però no, vorrei evitare... Cioè, Adone... Perché? Ah, boh. Adone dice, appunto, vorrei evitare di andare a... Diciamo da... ti casca l'occhio su Rodvold nel mentre che avete questa conversazione. Ok, al che Adone dice, per quanto potremmo chiedere a Rodvold, vorrei evitare, considerando che siamo qua, in quarantena... possibilmente ammalati di una malattia mortale, e non so se andare a chiedere il laterale di sigilli sia la scelta corretta. Naya ci pensa, e adesso però che gli viene anche a Naya questa idea, perché abbiamo tutti visto il com'è che si chiama, il riflettore su Rodmond. Così, che nel frattempo sta picchiettando una cacca con un bastoncino. Ma come una banale, cacca? No, no, scherzo. Ci sono piani in frase. Aspetta, stavo avendo un piano geniale. Dammi un attimo. La cacca è Beatrix che è sdraiata di faccia per terra, se vi ricordate. Ok, va bene, salvato. E Naya fa proprio... Potrei fare qualcosa di stupido, però non lo farò. Non farlo. Che io però qua avrei una cosa da dire. Non voglio essere il master di turno, però a questo punto direi che arriva il vescovo. Quando volete, cioè avete tutto il tempo che volete. Lasciaci divertire, Dio boia. My bad. T'avevo detto che c'è un piccolo pausa. Tra... Ah, ok. Sì, il vescovo arriva più tardi. Cioè, state un bel po'. Ah, beh, allora fanculo, parliamo quanto cazzo vogliamo. C'è la tua carta bianca, Bianca. C'è detto, dai, non rompete il cazzo adesso, fatelo dopo. Esatto. Va benissimo. Okay. E Naya dice ad Adone, dammi un attimo, ci devo pensare su, forse riesco a inventarmi qualcosa. E l'idea di Naya è... più ci pensa più sa che è un'idea di merda, quindi lo vedi che ride un attimo e dice, cioè non dice un cazzo, però l'idea sarebbe fingere di essere stupido, cosa che riesce molto bene, e di andare da come cazzo si chiama, Rodvold, ce la posso fare, da Rodvold, e dire, ehi, ma questo è opera del demonio. però non penso che sia. Un attimo, pensavo avessi un'idea un po' diversa, non so se dire migliore, però dai, ho detto che era stupida, sono un po' disperato. No, infatti, l'hai descritta correttamente la tua azione, quindi non ho molto da dirti al riguardo, solo che... 4 giorni che stai insonne, ci sta che non riusciate a ragionare bene? Grazie, terza voce fuori campo, meno male che ci sei tu. A me piace immaginare che ogni tanto appare questa bocca che ci parla così. Io pensavo più tipo il sole dei Teletubbies, però con la faccia di Pjanic che sorride. Dopo devo fare un edit, Pjanic, già lo sai. Ok, è finito. No, vi ho detto la cosa dell'insonnia perché, se vi ricordate, l'altro giorno vi hanno detto i sintomi che manifestavano Lydia e Ren. Non le Ren, scusa, Lydia e Kael. Sì, ma Adone sta ignorando la cosa come un pazzo. Certo, non sto morendo. Coping. Pretty people don't die. Esatto. Dai, va su tu. Alla voce, fuori campo. Ok, comunque... Naya è un po' preoccupata... Ah, vai, scusami. Adone dice... altra domanda. Come glielo vuoi mostrare? Lo vuoi disegnare? Perché sai che se noi lo disegniamo... è proprio così. Fa girata okay. 360 gradi. Bene. Ma quindi come glielo vuoi far capire? E questo è il mio punto, per questo non l'ho ancora fatto. La mia falla è che per ottenere più informazioni dovrei far vedere il sigillo. E io... Allora... A me di solito le cose inanimate non parlano, quindi... E soprattutto non mi mandano impulsi e bisogni del genere, quindi non vorrei condividere questa esperienza con altri poveri sventurati. Tantomeno... una persona così piccolina e giovane. Sono d'accordo con te. Quindi? Ehi, perché devo trovare la soluzione? Dammi una mano. No. La mia soluzione è non dire niente a nessuno. Come si fa? Non è una soluzione, quello che stiamo facendo da 5 giorni. Ti dice Naya così con gli occhi, bloodshot, le occhiaie. Io per 5 giorni sono stato chiuso in biblioteca, quindi... E ha funzionato. Ha funzionato? Allora... materializza uno specchio dove si vede Adone con gli occhi bloodshot e le occhiaie. Allora, sicuramente la mia cura personale e il rapporto con mio marito ne hanno risentito, ma direi che per il momento... Ascolta! A questo punto tira fuori il suo taccuino e fa vedere lo sketch che aveva fatto di quando era sul treno, dove tu vedi sketchato il treno e disegnato perfettamente il sigillo. Okay. Io l'ho già fatto. E appunto, per noi disegnarlo non succede niente. Non so che... Non ho idea di cosa diamine potrebbe succedere. Io cerco di non dire le parolacce perché Adore non le direbbe. Non so cosa diamine succede. Non so cosa diavolo succederebbe. Basta. Se lo facessi vedere un'altra persona. So solo che disegnarlo per il momento non causa problemi. Ma è anche vero che se lo noti... cioè ti fanno notare nel disegno, c'è una chiara differenza di capacità di disegno fra quello che ho messo attorno del treno e il sigillo. E infatti noti che, cioè, ti dico, sembrano quasi disegnati da due mani differenti, per esempio il fatto che, nonostante un po' l'attorno del treno, quindi gli altri ingranaggi, anche un mezzo scorcio del sedile, sia disegnato un po' male, cioè molto amatoriale, vedi che il sigillo l'ha disegnato perfettamente, cioè è tipo un cerchio perfetto, cioè è tutto perfetto, sembrano quasi due mani differenti che l'hanno disegnato. Mm. Quindi lui dice, faccio fatica a giustificarlo come, oh, l'ho visto in giro. Quella reazione di Naya, Eva. Sì. Yeah, fair, fair enough. Quindi cosa dovremmo fare al riguardo? Cosa dovremmo fare? Allora, come altrimenti possiamo farlo vedere a Rodvold e poi ucciderla. No, non era quello che volevo dire. Non era quello che intendevo dire. Ok. Possiamo... No, ricominciamo. Torniamo al problema precedente. Madonna che cerca di essere normale. Lei fa un passo, un micro passo indietro. Ok. Cosa vogliamo fare? Beh, potremmo... Domanda, Vianic. Sappiamo che deve arrivare il vescovo? No. Perfetto. Lo facciamo? No, cioè, no, è buttato lì. Allora, cioè... potremmo semplicemente... Potremmo mostrarlo a Kehiel. How does it make it better? Il fatto è che lei sembra già avere un sigillo sul proprio corpo, sembra essere immune alla malattia. Noi abbiamo dei sigilli sul nostro corpo, ti assolutamente dice, no. Dice, nah, vabbè, no. Questo era tipo, Naya che lo dice la Adone, cioè... Sì, sì, e Adone dice, no, sono sicuro che non ne ho sul corpo. 100%. Neanche sotto le palpebre, ti dice Naya. Marito non tracciato un sigillo su per il culo. Era quello il punto. Però grazie molto, sì, per i campi. Butt plug demoniaco. Wanna meet that devil. Va bene, scappavo. Grazie, siamo Fab. Povero Naya. No, comunque, quando gli suggerisci le palpebre, è lui a fare questa reazione un po'. Dice: Naya, non sono un medico e non so come tu vorresti assicurarti questa cosa. Semmai, se ci faranno delle visite mediche, possiamo chiederlo. Ehi, sì, scusami. Ok, i livelli del sangue sono normali. Ho qualcosa di incastonato sotto le palpebre. Secondo te come ci prendono? Sì. Non devi dirlo, insomma. Dici, mi fanno male gli occhi, sento qualcosa sotto le palpebre. Vorrei mica che in una situazione del genere qualcuno non ci ascolti? No, siamo ammalati, ci hanno prelevato da casa nostra e ci hanno portato qua, faranno un controllo. Se gli diciamo di controllare cose specifiche. Non lo so, non so se voglio fidarmi così tanto e... Non lo so, cioè... Stavo meglio a casa mia. Naya sta avendo un piccolo crollo perché non riesce a trovare la soluzione. Tipo, questo sono c'è molto Maria, che se le chiedo di controllarmi gli occhi, mi tiene la faccia, non voglio, porco Dio. No, no. Non chiedere a Maria. Naya would never. Allora, ok, sappiamo... Concentriamoci su quello che sappiamo. Sappiamo che è molto probabilmente legato a teurgia, che è una cosa estremamente semplice, lineare, che è una roba vecchia, molto vecchia, che è stata... Il mio unico dubbio è, che sto pensando adesso, è come mai i tubi si sono messi in quella posizione. Pensando la stessa cosa, cioè... Adone ti bacia, no, non è vero. Sto scherzando! Appena proposto di uccidere una persona. No, scherzo, era per dire... Adone però è compiaciuto di vedere che stanno andando alla stessa velocità i cervelli. Sì, lenta. Due allora, cazzo. Esatto. Ha il cervello fritto. La febbre. Ho un'idea. Perché invece di menzionare questa cosa estremamente specifica che non vogliamo menzionare nessuno, non menzioniamo tutto il resto delle cose che possiamo menzionare? Tipo? Cioè, tipo il fatto che noi stiamo dando sintomi. Mentre Naya lo dice, lo accetta. È tipo... Cioè, noi non stiamo mostrando... E vedi che adesso Adone Ketchups dice... Sono qui così che annuiscono, poi di loro proprio... È presente il meme del cane che guarda così? Ecco, Adone in questo momento. Con la musichetta di sottofondo pure. Quindi potremmo semplicemente... È il veggente, se c'è qualcuno del... È ruolo il veggente. Come cos'è che hai chiesto? No, questo sono io, Rox. Qual era il nome del ruolo che ricopriva? Rodvold? Sì. Semplicemente Rudolf. Dio cane, quanto ho scritto. Il veggente. Sì, cioè, credo si chiama il veggente, punto. Era il veggente, oh, ok, meno male. Ricordo di averlo scritto, non so dove. Beh, possiamo semplicemente andare a chiedere a... Rodvold. Gli stai parlando? No, sto parlando a voi! Era Rodvold il nome. Sì, Rodvold. Sì. Oh, ok, grazie. No, che non mi veniva... Allora, ok. Possiamo anche solo semplicemente chiedere a Rodvold se... ripensa al fatto che non stanno dormendo e che stanno dimostrando sintomi. Si sa qualcosa di più su quello che sta succedendo? Glielo vai a chiedere, quindi? Andiamo a chiederglielo. Cioè, Naya ha proprio gli occhi bloodshot che tipo... Sono le 25. Sì, mi sa che noi dobbiamo... Abbiamo 5 minuti. Oh, sì. Vabbè, andiamo da Rodvold e cosa gli chiediamo, quindi? No, questo è Eddie che parla. Intanto ti descrivo Rodvold, intanto che ci pensate. Rodvold ha in mano una candela di un metro. Ok? E la sta usando per punzecchiare Beatrix, che, come ti ripeto, è sdraiata di faccia per terra. Immobile. Cioè, probabilmente non ha più lacrime da piangere. Bene. E lui è tipo... Vain, vain, vain, vain, vain, vain, vain. Perché Adone... Penso dice... Ascolta, andrò a chiedere a Rodvold se, considerando che lui sa di magia, di teurgia, se ha mai visto, se ne sa qualcosa di sigilli strani particolari. Inventerò che è una mia ricerca personale. Wow. You are trying a light, the guy who reads your mind. Da sì? Dimmelo noi tu. Non lo sappiamo, Bianca, smetti di farci spoiler. Lo distraggo pensando intensamente all'amore fra me e Silas. Alla merda. Schifo. Vabbè. Merda. dai, ci sta. Cioè, Naya che Naya sta pensando ai cagnolini, al cagnolino che è a casa. Beh, vabbè, dai, andiamo. Allora, dai, andiamo da Rodvold e si avvicina a Donne e fa... Tanto però Donne non l'ha mai incontrato Rodvold, quindi... Se vuoi posso... Naya può farti da... ponte sociale. Sì, Adone fa... Vai, introducimi te. Introducimi te. Ciao! Ma dove sei stata la candela lunghissima? Me l'hanno data alle guardie. Per punzecchiare Beatrix? Sì. Per assicurarti che sia io? Piacere. Sì. Ciao, lo so. Sai chi sono io? Tu sei... Tu Adone Utrad. Sì. Sai che cosa ho mangiato oggi a pranzo? No. Wow. E sai anche cosa voglio chiederti? No. Ok. Ha gli occhi aperti, ha degli occhi azzurro di un colore vagamente innaturale. Sì, sì, sì. Perfetto. Allora Adon dice, tu, visto che so che te ne intendi di teurgia, considerando, e la indica così, sì, Sai qualcosa riguardo sigilli e simboli strani? Sai, per tipo? Una mia ricerca. Tipo, sai, e tipo si mette un po' a imitare nell'area, tipo dei cerchi con all'interno quando simboli. Lo fai, il tuo cervello va in autoplay. No! E quindi fai esattamente il simbolo esatto. Pensato un attimo dopo. E Rodwald lo guarda e dice: sì! E cosa sai dirmi al riguardo? Non so se te lo posso dire. Al che Adone si piega, si avvicina e fa: dai! No! E riprende a punzecchiare la tipa. E mi sa che ci salutiamo perché sono i 29. No! Che bel cliffhanger. Sei dopo, Nox. Sì, perché non ho una vita! Vieni a vederci giocare a D&D. Sì, però è una merda la tua campagna. Sì, se lo chiedi a Ludo ti dà anche un NPC interessante. No, no, ti prego, non diamole questo fardello. Vai, andiamo. A dopo, Rox. Ciao. Divertitevi. Quando finite chiamatemi. Ciao! Sì. Ah.